verso. Ed adesso giro terzo mentre sfudo un altro verso. Mentre cerco di immaginare un domani diverso. Ho smesso di dare peso alle vostre parole, perché mi accorgo che non pesano come le mie parole. Conta solamente il mio stato interiore. Io mi sento limitato come siepi nelle aiuole. Ho smesso di credere nello Stato e nelle sue bugie. È l'infame che contano i soldi nelle tasche mie. La bandiera ti infinocchia, non fare la ranocchia. Sarà lei a spompinare, quindi lei che si inginocchia. Ho smesso di pensare, anche che ha un senso pensare. Penso solo che se senza senso è inutile campare. E non abbandonare parole, campare in aria. L'aria amara fra e ti uccide come una mitraglia. Tutto finisce in un niente, fino alla fine vivo. E finisce tutto quanto se finisce ciò che scrivo. Ho smesso di dar retta a quelli come voi. Io esisto mentre voi, sono spermatozoi. Se combatti puoi perdere, se non lo fai è già perso. È così che funziona fra il mondo di adesso. Se ti fermi proprio ora, ti scrivo come D'Alessio. Senti quello che ho da dire senza dire che ho smesso. E se non avessi smesso io domani smetterei. Perché ci cappe e c'è casino fra mica che arrivi. Parlo con Dio ma mi ascolta e lì sembro ridicolo. Lo smetto oggi, lo faccio domani, zero articolo. Ho smesso di parlare anche con la gente falsa, perché loro come me hanno una voglia di rivalsa. E già mi sento male, penso a una vita convulsa. Fumi, bevi, rimi contro questa vita insulsa. Se ti rialzi da terra vuol dire che hai coraggio. Non smetti di lottare pure con il laccio al braccio. Non smetti di campare pure senza del disagio. Non smetti di pregare, nella vita sei un ostaggio. Ho smesso addirittura di amare una persona. Se la vita è una ladra e dopo il furto ti impressiona. Tanto come me sei diventato freddo e cubo. Non provi più emozioni, aspetti l'ultimo saluto. Tutto finisce in un niente, fino alla fine vivo. E finisce tutto quanto se finisce ciò che scrivo. Ho smesso di dar retta a quelli come voi. Io esisto mentre voi, sono spermatozoi. Se combatti puoi perdere, se non lo fai è già perso. È così che funziona fra nel mondo di adesso. Se ti fermi proprio ora, ti scrivo come D'Alessio. Senti quello che ho da dire senza dire che ho smesso. E finisce tutto quanto se finisce ciò che scrivo.